e avere paura e lanciarci dai balconi, che c'è tanto vento che ci porterà chissà dove, dove le rivoluzioni avranno finalmente senso, smetteranno di essere solo semplici parole belle da mettere in rima come adesso. Domani forse saremo felici, l'importante sarà trovare qualcosa per cui provare un'immensa paura al solo pensiero di perderla. Avere paura e lanciarci dai balconi e comportarci come se fossimo aquiloni, portati dal vento chissà dove, portati dove il sole avrà finalmente ragione, a renderci conto troppo tardi del filo che ci lega alle ringhiere delle nostre abitazioni, desiderosi di tagliarlo, timorosi di farlo, ma l'importante non è scappare, l'importante è trovare quel giusto equilibrio per continuare a respirare. L'importante sarà trovare qualcosa per cui provare un'immensa paura al solo pensiero di perderla. Avere paura e spalancare la finestra, pronti a lanciarci per protesta, sempre pronti a buttare tutto per il solito niente, per le solite discussioni che sappiamo benissimo di poter evitare con una facilità disarmante, come eravamo in grado di fare noi, come non sapete fare voi, che dovreste smettere di ridere convinti che ormai sincerità sia solo un'antica utopia. Smettetela di credere di essere i migliori soltanto perché i fiori bruciano più in fretta di voi. Voi siete finti come il vostro romanticismo che sa di plastica. Voi siete quelli che preferiscono l'aria condizionata al vento sulla faccia, le discoteche, le passeggiate sulla spiaggia, le vostre magiche serate sono vuote, non potranno mai competere con la bellezza di un campo di rose. Sappiate che la felicità esiste, mi ha lasciato più di un ricordo da quel 29 gennaio 1, ce l'ho sempre al posto, la felicità esiste, mi ha lasciato più di un ricordo da quel 29 gennaio 1, ce l'ho sempre al polso.